Storie italiane. Il sole e la luna. C'era una volta una famiglia povera che viveva in un villaggio. Era una famiglia composta da 3 persone: mamma, un fratello maggiore e una sorellina. Vivevano in una piccola casa. Un giorno la loro mamma dovette andare fuori dal villaggio. Figlio mio, esco perché ho un importante lavoro da svolgere per la famiglia più ricca del villaggio. Ritornerò prima che si faccia buio. Per favore, bada a tua sorella. Non preoccuparti, mamma. Mi prenderò io cura di lei. Resteremo a casa, mamma. Ma tu torna prima che sia buio, per favore. Certo. Vi porterò delle deliziose torte di riso. Wow, una torta di riso! Mi piace! Quando la madre uscì, il fratello e la sorella pensarono a un piano. Ho avuto una grande idea. Dimmi, fratellino. La mamma è fuori tutto il giorno. Non abbiamo molto da fare. Perché non le facciamo una sorpresa per quando ritorna? Che bella idea! Ma cosa? Il fratello si recò con sua sorella in un castagneto vicino alla loro casa per raccogliere delle castagne fresche per la loro mamma. Il fratello portò con sé un lungo bastone e chiese a sua sorella di portare un cestino. Quando raggiunsero il castagno, il fratello colpì le castagne usando il suo bastone. Guarda, dobbiamo scuotere i rami dell'albero per far cadere le castagne. Non dobbiamo arrampicarci. Eh sì, posso persino prenderle con il mio cestino. Sono tante. Raccolsero molte castagne e tornarono a casa. Seduti nel loro cortile, entrambi cominciarono a sbucciare le castagne. Aprirono il guscio spinoso e presero le dolci castagne marroni. La sorella voleva mangiarle, ma il fratello disse di no. Wow, sono così buone! Voglio mangiarne un po'. No, aspetta! Le arrostiremo per la mamma e le daremo per prima a lei. Non ricordi che è una sorpresa per la mamma? Oh, sì! Portiamole a casa! Si stava facendo buio e la mamma stava camminando velocemente verso casa. Era preoccupata per i suoi figli. I miei figli sono tutti soli a casa da stamattina. Spero che stiano bene e abbiano pranzato in orario. Pensando ai suoi figli, la madre stava camminando rapidamente nella foresta. Non si accorse che qualcuno la stesse osservando e la seguisse da dietro i cespugli. Vide alcuni cespugli tremare e si spaventò un po'. Cominciò a camminare più veloce, ma improvvisamente una grande tigre balzò davanti a lei. Ti ho seguita da un bel po' di tempo. Ho sentito un buon profumo provenire dal tuo cestino. E lo voglio, visto che ho molta fame. Sono solo torte di riso. Oh, torte di riso, le adoro. Mi fanno venire l'acquolina in bocca. Puoi averle tutte se vuoi. Certo che le prenderò, le mangerò tutte. Sono molto affamato. La mamma diede tutte le torte di riso alla tigre e mentre mangiava, ella fuggì. Correva nella foresta, cercando di trovare un altro modo per raggiungere il villaggio. La tigre la catturò di nuovo. Non puoi più scappare. Ma ti ho dato tutte le torte di riso. No, non è vero. Tu devi averne altre. Riesco a sentire l'odore. Dove sono? Dammele. Ne ho tenute un paio. Le sto portando ai miei bambini. Piacciono anche a loro. Dammele, stupida umana. Dammele o io ti mangerò. Oh no! Prendile, lasciami andare. I miei figli mi aspettano. La madre regalò alla tigre un paio di torte di riso che aveva nascosto nel suo vestito. Mentre la tigre iniziò a mangiarle, ella fuggì. Correva sempre più veloce, ma la tigre era più veloce di lei. Infine, fu catturata di nuovo. Ho mangiato tutto. Hai qualcos'altro? Dimmi, umana. No, no, non mi è rimasto niente. Anche il mio stomaco è vuoto. Dammi da mangiare o preparati a morire. Per favore, non uccidermi. I miei figli mi stanno aspettando. Devono essere molto affamati. Per favore, lasciami andare a casa. Come posso lasciarti andare quando sono così affamato? Dicendo questo, la tigre attaccò Mario, l'afferrò tra le fauci e la portò via con sé. Il fratello e la sorella erano seduti accanto al braciere, in attesa che la madre tornasse. Stavano guardando le castagne cuocere nelle fiamme crepitanti. All'improvviso, sentirono una strana voce. Oh, cari figli! Aprite la porta, per favore! Ah, la mamma è a casa! No, aspetta! Questa non è la voce della mamma. Deve essere qualcun altro. Penso che ci sia qualcosa di strano. Mamma, mostraci le tue mani. Apriremo la porta quando sapremo che sei tu. In realtà, non era la loro mamma fuori dalla porta, ma la tigre. Oh, il ragazzo è intelligente, ma io lo sono molto di più. La tigre osservò le sue zampe. C'era della torta di riso. Mostrò loro la sua zampa con la torta di riso. I piccoli innocenti bambini si rassicurarono e aprirono la porta, trovandosi davanti alla terribile tigre. Ah, una tigre! Aiuto, aiuto! Bambini, non c'è nessuno che vi possa aiutare. Oh, fratello, che cosa possiamo fare? Fammi pensare. Voi due siete in carne. Dovete essere più buoni della vostra mamma. Oh, hai mangiato nostra madre! Sta zitto! Mangerò tutti e due. Io sono molto affamato. Ditemi, chi vuole morire per prima? Te o te? Pensando per un po', la tigre indicò la sorella. Il fratello era preoccupato, ci pensò e disse: Ah, pensi che siamo gustosi? Ma tigre, se io ti offrissi qualcosa di più gustoso? Che vuoi dire? Hai mai mangiato le castagne? Castagne? Che cosa sono? Le castagne sono una delle cose più deliziose al mondo. Sono sorpreso che tu non le abbia mai assaggiate. Dammele! Voglio mangiare un po' di castagne! Certamente! Le castagne sono molto gustose, lisce e perfettamente deliziose! Guarda, le stiamo arrostendo adesso! La tigre guardò avidamente le castagne arrostite. Le castagne marroni lo attirarono. Mentre metteva la bocca nel braciere, si bruciò. La tigre iniziò a ruggire e urlare, ma nessuno era lì per aiutarla. Sto bruciando, aiutami! Ho un fuoco in bocca, la mia lingua scotta, aiuto, aiuto! La tigre pagò il prezzo per la sua golosità. La sua bocca e le sue zampe si bruciarono. Approfittando della situazione, il fratello e la sorella scapparono. Corsero nel loro cortile e si arrampicarono su un albero. La tigre uscì dopo un po' di tempo, cercando i due bambini. Fratello, per quanto resteremo seduti qui, ci prenderà e ci mangerà. Non ti preoccupare, devi pazientare. Ma fratello, ho paura. La tigre ci ucciderà entrambi. Non parlare ad alta voce, lui potrebbe ascoltarci. Entrambi si sedettero tranquillamente sull'albero. La tigre era furiosa perché il ragazzo lo aveva ingannato e si era bruciato la bocca. Cercò i bambini dentro e fuori intorno alla loro casa. Dove sono andati? Devono nascondersi da qualche parte. Non possono scappare nel buio. Li troverò e me li mangerò. Mentre camminava nel recinto, la tigre vide il riflesso dei bambini nel pozzo. Eccovi! Per quanto tempo volete nascondervi? Ho intenzione di mangiarvi. La tigre non capì che vedeva il riflesso dei bambini. Saltò dentro il pozzo. Quando cadde in acqua, si rese conto del suo errore. Bambini pastiferi! Mi avete ingannato di nuovo! Mi avete fatto male due volte! Per prima cosa, mi avete bruciato la lingua! E ora mi lasciate cadere in acqua! Non vi perdonerò mai! Mi vendicherò! Fatemi uscire! I bambini si misero a ridere di lui. La tigre in qualche modo trovò la corda appesa nel pozzo. La tenne stretta e si arrampicò. Andò vicino all'albero dove erano seduti i bambini. Cercò di arrampicarsi sull'albero, ma era scivoloso. Così non può più salire. Ehi, bambini, ditemi come posso salire. No, io non te lo dirò. Se mi dici come salire, ti prometto che non ti mangerò. Abbiamo usato quell'oggetto lì per arrampicarci. Oh, sorella, perché mai gliel'hai detto? La tigre non è sincera. Certo che lo sono. Bambini, mi arrampico e in un attimo vengo a salvarvi. La tigre trovò un oggetto vicino all'albero e iniziò a salire. Il fratello e la sorella erano spaventati. Il fratello iniziò a pregare Dio. Oh, onnipotente, per favore, mandaci una corda se vuoi che sopravviviamo. O mandaci un segno se noi dobbiamo morire. Oh, Dio, aiutaci. Ehi, fratello, guarda! È una corda! Grazie, Dio! Grazie! Entrambi, fratello e sorella, si arrampicarono sulla corda. Arrivarono in alto nel cielo. Quando la tigre si avvicinò, vide i bambini volare in cielo. Divenne furioso. Dovrei pregare anch'io. Va bene, lo farò, ma non lascerò andare via il mio cibo. Ehi, Dio, mandami una corda per raggiungere il mio cibo. Ho un segno se io devo morire. Molto presto arrivò una corda. La tigre si arrampicò velocemente. La corda lo condusse in cielo, ma non per molto tempo. Quando salì in alto su nel cielo, la tigre si accorse che la corda era marcia. Si staccò dal centro e la tigre cadde a terra e così morì. Il fratello e la sorella salirono oltre le nuvole, in alto nel cielo. Dio li benedisse e li tramutò nel sole e nella luna. Permise loro di illuminare il mondo giorno e notte.